varie forcelle cromati a specchio, pistoni in fiamme in movimento, è questo il ritmo che guida la mano e l'acceleratore pompa questo blues driver. Piangere o ridere.